Ero pronto a scrivere tante volte le parole il mattino allora in bocca, il mattino allora in bocca, il mattino allora in bocca. E non era un buon segno. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 7 minuti di un venerdì qualunque. Beh, mica tanto qualunque. Venerdì santo, è il 22 di aprile del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Caro Matteo, mi chiamo Serena e ti scrivo da Putignano. Io ho scoperto di soffrire di horror vacui poco tempo fa e per caso, leggendone il significato su una rivista di psicologia. E mi sono detta, questa sono proprio io. Sono così, perché fuggo dall'ansia, fuggo dalla paura di essere abbandonata e di non sapere che cosa fare nell'attesa. Nell'attesa di cosa poi? Di tutto. Riempio i miei momenti vuoti, quei minuti che mi separano dal verificarsi di un qualsiasi evento. Se parto, ad esempio, in borsa ho sempre qualcosa che non mi faccia sentire quel vuoto. Una rivista da leggere, un libro, la Nintendo DS, o comunque il cellulare con connessione internet. Non riuscirei mai a stare senza fare niente. C'è chi dice che vorrebbe scappare su un'isola deserta. Io mi deprimerei se fossi da sola. Dopo anni di assoluta pigrizia mi sono risvegliata e non riesco a stare un attimo ferma e quieta. Ciao, Serena. Sì, perché l'horror vacui è veramente una brutta bestia. Ti prende all'improvviso, quando finisce un lavoro, quando finisce una storia d'amore, quando vai in pensione, perfino quando sei in vacanza. Addirittura mentre sei in coda per andare in vacanza. Ma anche quando avete solo 2 ore liberi vi prende quella paura da oddio, e adesso cosa faccio? Ecco, voi come lo riempite quel vuoto? Qualsiasi sia la compulsione che usate, che siano corsi di ogni tipo, che siano le pulizie della casa, il sesso, la botanica, l'alcol, la corsa, la palestra, i viaggi, le letture, qualsiasi tipo di sport. Oppure vi inventate qualcosa ad hoc per riempire quel vuoto lì. Io lo scorso anno ho venduto tutto e ho stilato una lista dei desideri e alla fine l'ho fatto anche per quello. Me ne rendo conto solo adesso. Era paura del vuoto anche quella. Ma magari è proprio in questo momento, alle 16:10 di venerdì 22 aprile, adesso che siete in auto e state scappando dalla città. Voi siete sicuri che non sia perché volete passare 3 giorni di vacanza, ma semplicemente perché avevate paura del vuoto che questi 3 giorni avrebbero potuto riservarvi. Qualsiasi sia il modo in cui riempite il vostro horror vacui, io oggi sono qui. E il numero è sempre quello, anche oggi, anche venerdì santo, è 800240024 per chiamare in diretta gratuitamente, oppure mandate un sms, il numero è 349-238-6666. Ci sono vari modi per riempire l'horror vacui. Innanzitutto bisogna riconoscerlo, cioè bisogna capire che cos'è, bisogna capire quando ti prende, saperlo riconoscere, oppure anche no, però se non lo riconosci comunque te ne rendi conto dopo un po' che stai facendo compulsivamente la stessa cosa, che era solo paura di stare fermo senza fare niente, quindi la paura del vuoto. Ad esempio, adesso, essendo che il GR di Radio 24 ha aperto come prima notizia col traffico, vuol dire che c'è un delirio in giro per le strade, sai che novità, c'è il sole ed è il venerdì di Pasqua. Voi magari siete anche contenti che siete partiti, che state andando in montagna, che state andando in campagna, però poi lo sapete che questi 3 giorni sono un delirio, perché se te li fate un pranzo una volta, la grigliata la seconda volta, però poi c'avete la suocera da tenere a bada, c'avete gli amici che visti una volta, visti due, poi non ce la fate più, e magari ci avete proprio pensato, ve lo siete portati da casa, un modo per riempire il vuoto di questi 3 giorni. 800240024, che sia un videogioco, che sia un libro, che sia un corso d'inglese di quelli, come si chiama quel metodo famoso del corso d'inglese o di qualsiasi lingua, vabbè, ci verrà in mente, sì, quel metodo, quello che, no, vabbè, dopo ci viene in mente, lo diciamo. 800240024. Luca, 6 anni fa cambiai lavoro. Passai da un lavoro che mi teneva impegnato tutto il giorno ad un lavoro che, una volta passate le 16, mi dava un senso di libertà barra vuoto che non avevo mai provato prima. Decisi di iscrivermi all'università. Da quel momento non ho avuto più un attimo libero. Nel dicembre del 2009 mi sono laureato, triennale in statistica e informatica. Nel 2010 ho iniziato di nuovo a sentirmi un grande vuoto. Ci sono ricascato, mi sono iscritto alla laurea specialistica in ingegneria informatica e tanto per essere sicuro di non avere del vuoto da colmare mi sono iscritto anche a un corso di inglese. Oh, bravo Luca! 349-238-6666. Alberto, ho iniziato a cucinare. Faccio da mangiare per un reggimento, poi congelo tutto e consumo un po' alla volta, quando non ho tempo per cucinare. Francesca, premesso che sono anni che non conosco più il concetto di 2 ore libere. Francesca, dai, anche meno, cala un po' l'angolo. O forse dovresti pigliarti queste 2 ore libere una volta ogni tanto. Comunque, quando mi capitava, certo, perché adesso sono anni che non le capita più, quando mi capitava l'ansia di horror vacui, facevo il cambio dell'armadio. Anche se era fuori stagione, così, non era fuori stagione. Marco, quando sono rimasto a casa da un lavoro, ho costruito una parete in cartongesso. Faccio l'impiegato, poi l'hai buttata giù e l'hai ricostruita. È un metodo anche quello. Fabio, amplificatore a palla e si suona al metallo. E dai, quei metallari. 800240024 3492386666. Proseguiamo con l'horror vacui più tardi. Vi racconto il mio di horror vacui. Però c'è innanzitutto un annuncio istituzionale. E in quanto istituzionale, spero di non fare i soliti casini. Sapete che Radio 24 è al Salone del Libro tra un mesetto. Ci siamo noi siamo giovedì 12, ma ci sono praticamente tutti i programmi che sono in diretta trasmetteranno da là, dal padiglione 2. C'è un'iniziativa che è stata sviluppata da Radio 24 e dal Salone del Libro. In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, il Salone quest'anno è dedicato alla memoria come seme del futuro. E in particolare si terrà una mostra che ripercorre 150 anni di editoria italiana. Si sente che sto leggendo? Si sente tanto? Tra questi, la mostra propone i 15 libri, cioè 15 libri per 150 anni, che meglio rappresentano la storia d'Italia. Vi faccio l'elenco di quali sono questi 15 libri e poi vi spiego che cosa dovete fare. 1867, Ippolito Nievo, Le confessioni di un ottuagenario. 1880, Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. 1886, Edmondo De Amicis, Il libro cuore. 1891, Pascoli, Mirice, giusto? 1919, Ungaretti, Allegria di naufragi. 1923, Svevo, La coscienza di Zeno. 1925, Montale, Ossi di seppia. 29, Moravia, Gli indifferenti. 47, Primo Levi, Se questo è un uomo. 48, Guareschi, Don Camillo. 57, Italo Calvino, Il barone rampante. 58, Tommasi di Lampedusa, Il gattopardo. 63, Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore. 1980, Umberto Eco, Il nome della rosa. 2006, Roberto Saviano, Gomorra. Questi sono i 15 libri. Voi potete partecipare a un concorso votando qual è il libro che preferite tra questi 15, o il libro che meglio rappresenta questi 150 anni. Sì, ci arrivo. Cioè, avevate paura che non lo dicessi. Come si fa a votare tutto ciò? Andate sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e appena lo aprite, magicamente, come mi ha suggerito Valerio Piosiello, si apre un pop-up. Questo pop-up è semplicemente una finestra che si apre, ci sono questi 15 libri, potete votarli. Se li votate, avete diritto ad uno sconto presso la libreria Rizzoli. No, non è uno sconto. È un buono spesa della libreria Rizzoli. No, è così, Viola, è così. Radio24.it per votare uno dei 15 libri che rappresentano meglio 150 anni dell'Unità d'Italia. In più al Salone del Libro c'è anche uno spazio espositivo in cui ci sono questi 15 libri. Ce l'ho fatta, toccava a noi farlo oggi, l'abbiamo fatto, poi toccherà a Cruciani un'altra volta, giusto? 80024 0024 349 238 6666. Adesso si torna a parlare di horror vacui e in particolar modo del mio. Fino a una settimana fa eravamo in 3 ad abitare la mia casa. Io, Nathalie e Samir. Ora sono di nuovo a casa da solo. E non l'ho scelto io. Se ne sono andati loro. Uno a Tbilisi e l'altro a Linz. E poi chissà. Quando ci si abitua a qualcosa, a qualsiasi cosa, dico, quando quella cosa non c'è più, poi manca. Mi ricordo quando da piccolo mi tolsero le adenoidi, ad esempio. Io ho sempre respirato un po' male da bambino, perché avevo il naso intasato. A quella cosa però mi c'ero abituato. A quell'R strana, un po' moscia, mi distingueva dai miei compagni di scuola. E respirare a bocca aperta, a volte, soprattutto quando faceva caldo oppure avevo corso, mi faceva sembrare più grande. Ovviamente hanno fatto bene a togliermele, lo so. Però quando è successo, una parte di me si è come dispiaciuta. Ho ricominciato a respirare perfettamente, senza un sibilo. E a furia di esercizi di logopedia, la mia R è tornata normale. Quindi, senza accorgermene, era finita l'era in cui bastava che respirassi per sentirmi un po' più figo degli altri. Più adulto, migliore. proprio come quando il mio compagno di banco alle elementari si era rotto il braccio ed era andato in giro per un mese con il gesso. Improvvisamente era diventato il più figo della scuola. Poi il braccio si è aggiustato e lui è tornato ad essere uno qualunque. Ecco, io ho sempre avuto paura di tornare uno qualunque, proprio come Mina Suvari in American Beauty, avete presente, no? Sì, lo so che non è una cosa particolarmente sana, ma va così. Rimane il fatto che tutti, ognuno a modo suo, quando ci abituiamo a qualcosa, perfino se ti fa respirare male, facciamo fatica a dimenticarla quando se ne va. In pochi giorni se ne sono andati i miei due compagni di casa, la mia fidanzata e il mio nuovo amico di Tunisi. E non è una cosa triste, hanno fatto la propria scelta, io sono felice per loro. Però adesso la casa mi sembra vuota e immensa. E dire che non è una reggia, eh? Però è tornata silenziosa, è tornata pulita, perché le sto dietro e nessuno me la sporca. Ecco, la mia casa adesso mi fa un po' paura. No, è che da quando ho visto Shining, penso sempre che quando una persona vive da sola in uno spazio molto grande e deserto, può diventare pazzo. Natalia e Samir si sono portati via le loro cose, borse, vestiti, palle da bowling, scarpe, quadretti, piccoli peluche, caricatori di cellulari, computer portatili, giubbotti. Ognuno ha una vita altrove e ha tolto vita a questa casa. Qualcuno lo chiama horror vacui, paura del vuoto. Succede quando dentro di te non hai abbastanza risorse per riempire gli spazi della tua esistenza. È sintomo di un malessere, di uno stato patologico. Perché io sono un ottimista, no? E così ieri sera mi sentivo che stavo per impazzire. Ho cominciato a guardarmi intorno in silenzio, seduto su una poltrona nel centro della sala. Ho parlato e nessuno ha risposto. Le mura facevano una leggera eco. Ero pronto a scrivere tante volte le parole «il mattino allora in bocca». E non era un buon segno. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain, I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise, I'm gonna rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise, I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise. Quando sono andato in cucina mi sono accorto che era scomparso anche l'odore di quelle maledette spezie che Samir usava nei piatti che preparava. Le rapportate via, perché per lui sono preziosissime. Per me invece erano solo puzza. Però mi dispiaceva anche per quello. Il niente è peggio di qualsiasi cosa alla fine. Mi sono guardato un attimo da fuori e per fortuna mi sono fatto ridere. Mi è bastato guardarmi nel grande specchio che c'è in corridoio e fare due smorfie e ricordarmi chi sono io. Ma, dicono, rimpiangere disordine, sovraffollamento, cattivi odori. No, non se ne parla. E allora decido che bastava poco per stare un po' meglio e che avrei cominciato cucinando un bel risotto pere e taleggio. Il profumo del soffritto mi ha dato subito un senso di benessere. E poi c'è il fatto che agire, qualsiasi azione si compia, è una medicina magica per tutte le malattie, anche quelle immaginarie, soprattutto per quelle. E me lo sono goduto quel risotto, accompagnato da un bel bicchiere d'aranciata. La classica cosa che al ristorante non posso fare, ma a casa da sola sì. E rimanga tra noi. Dopo aver mangiato, ho ruttato rumorosamente e con grande soddisfazione. Perché non sono Lord Brummel, sono uno qualunque che se mangia risotto e Fanta gli si gonfia lo stomaco. Era sera inoltrata e non c'era tanto da fare se non andare a letto, in quella stanza che rimaneva vuotissima. E allora sono uscito per fare due passi. Lo diceva anche Kafka, no? Che quello è un atto di indipendenza da tutto e da tutti. Uno di quei gesti che se vivi con qualcuno devi giustificare con un «Io esco a fare due passi». «E dove vai?» «Ma a fare due passi». «Sì, ma a fare cosa?» E allora lì la voglia di fare due passi scompare e ti sembra di fare una cosa che non si fa. Oppure se la fai, la fai male, senza godertela. E invece quando sei da solo, puoi uscire e rientrare di casa anche 10 volte di fila, senza rendere conto a nessuno. E allora sono andato fino in Piazza Duomo a piedi. Era bellissimo, vuota, gigantesca, come casa mia. E io la riempivo anche solo camminandoci dentro e guardandomi intorno e respirando la sua aria cattiva. Quando sono tornato a casa non avevo sonno e allora ho acceso la televisione. Ecco, una cosa che non potevo fare quando Samir era qui, perché lui dormiva sul divano. Ho guardato una puntata dei Griffin, il secondo tempo di Chelsea-Manchester United di chissà quanto tempo fa. Un po' di basket NBA in diretta da Chicago e poi una puntata meravigliosa di Megastrutture sulla costruzione della diga di Assuan. Lì sono stato indeciso, perché in contemporanea c'era anche Gli Eroi del Ghiaccio, che è un programma che segue dei camionisti che lavorano esclusivamente su una strada di 200 km che collega l'Alaska a certe piattaforme petrolifere o di ricerca scientifica, non ricordo, e sono in mezzo al mare congelato e guidano dei tir su una strada letteralmente di ghiaccio, e un metro sotto di loro c'è il mare artico. Per fortuna l'ho registrata e l'ho rivista dopo. Nelle pause mangiavo e bevevo, e così ho fatto le prime luci dell'alba, pieno di suggestione, di immagini, di persone. La solitudine se la sai prendere è una figata. E allora sono andato a letto, perché qualche ora di sonno potevo ancora permettermela. E ho dormito poco, ma benissimo, e senza pigiama. E quando mi sono svegliato il sole era alto, la casa era splendida, grande, accogliente, spaziosa, tranquilla e profumata. E l'ho girata senza vestirmi, in cerca di biscotti. Quella era ancora casa mia. No, I said it weren't his fault. You know the coppers rolled him right out of town. I've been sleeping until the crack of noon. Midnight howling at the moon. And I've been going out when I want to. Coming home when I please. I have to ask permission. When I go out fishing, never have to ask for the key. Mi piace il risotto per Italeggio. Come si prepara? Beh, cosa mi prepara? Fai un soffritto, butti il risotto e poi mischi pere e taleggio. Cioè, da cui la parola risotto, pere e taleggio. 349-238-6666 800-24 0024. Si colmano vuoti oggi, io sono qui. Ad esempio, io giro tutti i giorni in mountain bike appena finisco di lavorare, e la domenica vado a fare le gare. Sì, questo potrebbe essere un modo. Paolo di Verona: faccio poco tutto il giorno e quando ho un paio di ore libere faccio un bel pisolino. Ciao! Vorrei sapere che cosa fai di quel poco che fai tutto il giorno. 80024 0024 349 238 6666. Non perché è Pasqua. Si fanno i regali a Pasqua? Sì, qualcuno li fa. Noi abbiamo deciso di farvi un regalo. In particolare Tiziano ha deciso di farlo, visto che oltre ai brani che mettiamo, che sono sempre pubblicati sul sito della radio, alla pagina Io Sono Qui, radio24/io sono qui, noi mandiamo anche delle basi, che sono quelle che sentite, quei sottofondi musicali che sentite quando vi racconto le storie, ma anche adesso mentre sto parlando. Quelli è più difficile riconoscerli, soprattutto perché Tiziano li va a scovare chissà dove. E visto che molti ci chiedete dove li prendete, ogni tanto mi scrivono messaggi tipo: ma qual è quell'arpeggio di chitarra che metti mentre parli? Ce ne sono tipo 20, sono una ventina, forse anche di più. Allora, molto semplicemente, Tiziano Bonini ha fatto un bel elenco e l'ha pubblicato sul profilo Facebook, quindi potete andare in questo momento sul profilo Facebook, che è Matteo Caccia Io Sono Qui, e Tiziano ha pubblicato una nota. Chiaramente non c'è scritto quale canzone è quale musica che ascoltate, però ve le andate a cercare su internet e trovate tutto. Matteo Caccia Io Sono Qui, c'è una nota con tutte le liste e poi con tutte le basi. E Tiziano mi diceva anche che però ha fatto un canale su YouTube, per cui è proprio su un unico indirizzo internet ci sono tutte le basi che potete ascoltarvi direttamente da YouTube. Quindi questo è, grazie Tiziano, il miglior regalo che potessimo fare. Vabbè, ho detto la solita roba veramente per chiudere la frase. Il miglior regalo che potessimo fare. No, potevamo far di meglio anche, però è già qualcosa. È arrivato questo messaggio prima che diceva: Lucia, io me ne vado via proprio per cercare di colmare quel vuoto, lontano da pranzi, amici, cene. Lucia, pronto Lucia? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, tu? Grazie, io benone, grazie. Grazie per essere qui. Dov'è che te ne vai, Lucia? Io me ne vado in Toscana. Ma si può dire dove? O? Sì, abbiamo trovato Grosseto praticamente. Ma con chi hai trovato? Con tuo marito? Ma no, con degli amici che non vedo da quasi un anno, quindi ci siamo risentiti e abbiamo deciso di rivederci, quindi non si vedono i soliti amici di sempre. Tu che cosa fai nella vita, Lucia? Io mi occupo di farmaci, faccio un informatore. Fai l'informatore scientifico, sì. che non è un commerciale, ricordiamoci. Sì, vabbè, sì, più o meno. Senti, tu non hai una compulsione con la quale riempi gli spazi vuoti della tua giornata? Ma devo dire che di spazi vuoti ne ho pochissimi, non moltissimi, e quando li ho faccio praticamente nulla, nel senso che li riempio non facendo assolutamente nulla. Quanto ti manca la pensione, Lucia? Quanto mi manca? Alla pensione. Tantissimo. Ho 45 anni. Ah, ok, sei una bambina. No, perché io ho visto mia mamma, quando è andata in pensione, ha lavato tutte le tende, tutti i tappeti, tutte le lenzuola, e dopo, tipo, dopo 2 mesi le aveva lavate e rilavate, si è seduta su un divano e ha detto, e mo cosa faccio? No, non ci penso proprio. Non ci pensi proprio a lavare tutte le tende, esatto, tutti i tappeti, tutte le lenzuola. Lucia, fai buon viaggio e buona vacanza. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Giuseppe, io mi divertirò a fotografare navi in ingresso ed in uscita. Questa è patologia. Navi in ingresso e in uscita dal porto di Ravenna, per poi pubblicarle sul sito www.vesseltracker.com. Tra l'altro sarà pure patologico, ma io sono andato a vedere questo sito ed è meraviglioso. Ci sono solo foto di cargo e di petroliere che entrano ed escono dai porti di tutto il mondo. Sì, è una forma di megastruttura. Andate a vedere il sito vesseltracker.com e grazie a Giuseppe. Adesso no! Non c'è la borsa perché è Venerdì Santo. Peccato, perché c'ho sempre quell'angurino lì che mi domandavo come andranno. Niente, allora tra poco io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao e stai qui. Nella foto di oggi sembra di stare in presenza di alcuni ectoplasmi. È una foto grigia con dei profili neri, sembra un po', avete presente le immagini da visore notturno che trasmettono dall'Iraq o dall'Afghanistan che i Marines ci hanno attaccati sull'elmetto? È una roba del genere, perché c'è qualcosa di illuminato proprio in primo piano che è una tazzina del caffè, no, una tazzina di tè, una tazza di tè su un tavolino, e poi ci sono tipo 5-6 persone sparse sul pavimento di una sala con le pareti bianche, tutte vestite di nero, che sembrano, non si capisce se stanno dormendo o stanno facendo qualcosa per terra. Cristina Casati, 29 anni. Sono a Seregno nella scuola dove seguo una mia passione, il corso di espressione corporea, ed è il momento dello spettacolo Alice senza dubbio. Io, Lau, Lu, Nico, Ariel, Kim, siamo state catturate da Mario nell'istante del contact. Tanta energia e persone speciali. Io sono qui. Io me la ricordo Cristina, l'avevamo sentita perché quando ci aveva raccontato del corso di espressione corporea. Andate a vedervi le foto, sono state catturate nell'istante del contact, dice Cristina, che non so cosa sia, e sinceramente la foto non rende neanche molto bene l'idea. Comunque radio24.it, io sono qui, c'è anche la foto oltre ai brani che mettiamo. Metodo Pimsleur, mi scrivono. Che cos'è? Ah, forse il metodo per imparare le lingue. Vabbè, ma non era quello che intendevo. Ciao, ho da 17 anni. Allora, ho 31 anni. Da quando ne ho 17, lotto e riempio il vuoto di un amore infantile mancato con il cibo, lo sport. Tutto diventa un eccesso, una dipendenza e un'ossessione. Monica, mazza. Da quando ne ho 17 sono tanti. Puntata molto azzeccata. Sarà che sono solo e faccio l'insegnante, ma ogni volta che arriva giugno, con la prospettiva di 2 mesi liberi, mi viene l'ansia. Non sei l'unica a cui viene l'ansia in prospettiva. Anche a Massimo, che mi ha scritto, frequento l'università serale, faccio l'istruttore di apnea. Sono terrorizzato all'idea di laurearmi e non sapere cosa fare la sera. Pronto Massimo? Pronto. Ciao, come stai? Bene, influenzato ma bene. Grazie per essere qui innanzitutto. Senti, tu fai tutte queste cose, mi ricordi esattamente che cosa, l'università serale cosa studi? Economia. E hai un'azienda tua in cui fai? Di cui sono il titolare, l'amministratore. Ma no, ho capito, che cosa fa l'azienda? Prodotti abrasivi. Ah, ok, quindi tipo la pasta, quella per graffiare la macchina, cioè per graffiare, no. Tipo la carta vetrata, ma la versione industriale. E si vendono ancora queste cose? Sì, sì, sì. Chissà perché non si sarebbero potute vendere, tra l'altro. Tipo, è passato il tempo della carta abrasiva. E in più sei istruttore di apnea? Sì. Ma in che cosa consiste insegnare? Non basta andare sotto, tapparsi il naso e compensare, bisogna studiare un metodo? Sì, bisogna studiare il proprio fisico, ma anche la propria mente. Senti, e in tutto questo tu mi scrivi che sei terrorizzato all'idea di laurearti perché non saprai cosa fare la sera. Sì. Cioè ti basta proprio poco per avere l'horror vacui, nel senso che hai la giornata già piena, ma se ti laurei in economia, hai detto? Sì. Non c'hai più i corsi da fare la sera? Poi dopo rimango spiazzato dalle 6 di sera fino alle 10, ma perché poi vado in piscina dalle 10 alle 11 e mezza. Ah, quindi sono proprio quelle 4 ore lì che ti terrorizzano. Ma tu quanti anni hai, Massimo? 45. Ma tipo uno straccio di fidanzata? Ma io ho moglie e figli. Ah, E magari fare una cena con questi poveri ragazzi, accompagnare la moglie al supermercato. Mamma mia, io ceno sempre con loro, quasi sempre. Ok, però Massimo, mi sembra di capire che il terrore ti rimane. Però cosa fa? Non stai partendo, non stai andando in vacanza? No, non vado in vacanza. Ok, perché c'hai un horror vacui che ti attanaglia anche solo l'idea di avere 3 giorni liberi, immagino. No, anche se come al solito mi succede... arrivo al periodo delle vacanze e mi ammalo. Va bene, chissà come mai, Massimo, ti ringrazio, buona giornata. Grazie. Ciao, grazie ancora. Andiamo in provincia di Ferrara da Fabio. Pronto? Pronto, ciao Matteo. Ciao Fabio. Senti, ciao. Tu dopo quest'estate ti fai il famoso anno sabbatico? Sì, penso di sì. Sentivo ieri, mi è venuta l'ispirazione, è già dopo che ci penso. Uh-huh. Ieri sentivo che in Inghilterra fanno un anno... gap year, qualcosa del genere. Sì. E si prendono dopo tipo il diploma, prima di affrontare poi l'eventuale università, si prendono un anno per riflettere così. E io mi sa che me lo prendo l'anno prossimo. Senti, ma tu che cosa fai di lavoro? Io sono medico. E puoi permetterti di prendere un anno vuoto completamente? Beh, no, devo continuare comunque a lavorare, sai, perché ho famiglia, moglie e figli, però ho fatto dopo la laurea 2 specializzazioni, poi comunque lo sport. E allora, ecco, come ho scritto nel messaggio, non prendere impegni, ecco, fondamentalmente, come a lunga scadenza. Quindi come, tu non hai di questi problemi, non hai un terrore di rimanere senza niente da fare? Ma forse ho pensato, sentendo te oggi, che forse il fatto di aver sempre fatto qualcosa era perché avevo questo terrore, non lo sento a livello, come dire, conscio. Ho capito, vuoi fare un esperimento? Quanti anni hai, Fabio, mi hai detto? Io, 38. 38, ok Fabio, ti faccio un sacco di bocca al lupo. Ok, grazie. Ciao, dai. Buona giornata, grazie. Ciao, a te. Buona giornata anche a te, Matteo. Sì. Andiamo a Genova da Claudia. Pronto, Claudia? Sì, pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene, voi? Mi dai del voi o tu parli di tutta la redazione? Come? Mi dai del voi o parlavi per tutti quanti quelli di là? No, dal vetro? Parlavo per tutta la redazione. Stanno tutti in grandissima forma. Senti, tu avevi smesso di lavorare perché? Sì, dunque, io ho smesso di lavorare per seguire mia figlia. Sì. E poi mia figlia, vabbè, oramai è maggiorenne, quindi non ha più bisogno, anzi abita da sola. Beh, meglio, no, Claudia? Lo dici come se ti dispiacesse un po'? Eh beh, certo che mi dispiace, ma adesso... Ma scusami, quanti anni ha? Prima cosa, appena hanno 18 anni, purtroppo, insomma, le mode... No, ma Claudia, ma scusami, ma per fortuna che se ne vanno quando hanno 18 anni? Di solito in Italia ci rimangono fino a 28 sul groppone. Dalla mia esperienza vedo che le femmine tendono ad andare, invece i maschi forse ancora un po'... Mm. E cosa fa tua figlia, scusami? E mia figlia, chi lo sa? Una bella domanda, in teoria studia. Claudia, sai che mi stai facendo venire un patema d'animo enorme? Adesso sono già preoccupato per questa ragazza. Cosa starà facendo adesso alle 16:41 di un venerdì pomeriggio? Adesso in questo momento io sono a Genova, lei a Parigi e non so sinceramente cosa stia facendo. Cosa ci fa a Parigi, scusami? Vabbè, intanto lei studia lingue. Vabbè. Quindi diciamo che... Claudia, sei disperata per questa figlia. Sì, sei veramente disperata. Direi che l'argomento figlio è meglio. Sì, no, mi sembra che è meglio andarne via, perché ti vedo. Comunque io credo che sostanzialmente lei si stia divertendo e stia diventando una donna, forse, no? Cioè stia crescendo. Come appunto è scritta lingue, spero che insomma, il francese lo impari, ecco. Beh, insomma, ce lo speriamo tutti. Claudia, secondo me dai un po' di troppo peso a questa cosa, lascia che faccia quello che deve fare. Sì, no, ma io infatti mi sono dedicata ad altro. Ti sei buttata sul trading? Dunque, io per venire al tema, no? Sì. Quello che mi ha attirato di questa domanda è la parte, l'avete buttata proprio sulla compulsione. Certo, no? Certo, proprio sull'horror vacui. Tu, ecco, per evitare questo, hai scritto un blog di economia? Dunque, io prima ho iniziato col trading, perché proprio l'adrenalina che dà, poi è inutile che lo dica in questo senso. A Radio 24, ti pare, certo. L'adrenalina qua, ragazzi, dà... tu non sai che adrenalina c'è in redazione, trading, siamo sempre lì. Okay. Appunto, quindi è inutile che lo spieghi a voi. Brava, però poi, scusa, perché poi devo non ho tantissimo tempo. Ecco, quindi... solo che poi questo non mi bastava più per okay. farla breve, perché è il sabato e la domenica. Certo, le borse sono, certo. Quindi... Però poi nello stesso tempo ho capito che per fare trading bisognava specializzarsi anche come macroeconomia, sì. insomma, come notizie, eccetera. Sì, devo chiederti quindi... di stringere, Claudia, purtroppo. Sto però. Stringendo, ho sempre la vostra radio accesa, sì. insomma, però anche quella non basta, sono sintonizzata un po' anche su tutto. Insomma, anche, hai scritto un blog, Claudia. Dimmi... È diventato un fenomeno compulsivo, vediamo finché dura, non lo so. Però... Senti, dimmi qual è il sito, il tuo blog, come si chiama? Il mio blog, a tutti. Certo. No, oddio, hai paura che... Niente. Porte. Come? Si chiama Borsa Pret-à-Porter. Claudia, ti ringrazio molto. Guarda, starei ore a parlare con te e sentire come sta tua figlia, però devo salutarti perché ho altre telefonate. In bocca al lupo. Grazie. E fai un bel respiro che va tutto bene. Stai sempre su. Andiamo da Daniele da Pisa. Pronto, Daniele? Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Senti, tu hai capito che cosa succede per i 150 anni e per i 15 libri dei 150 anni? Ah sì, meraviglioso, la tua presentazione è stata meravigliosa. Benissimo, ora voglio confrontarla con quella di Cruciani, però a vedere se è più bravo. Guarda, non credo che questi paragoni non sia il caso di farli. Comunque vai sul sito, si apre il pop-up. Senti, tu cosa stai facendo? Anche tu stai riempiendo un vuoto? No, io sto guidando, sto andando verso Napoli, perché purtroppo, come scrivo nel messaggio, non ho trovato posto sul treno. Volevo farmi un comodo viaggio in treno, ma non c'era più neanche un posto per andare giù. Allora ho dovuto optare per la macchina. Che cosa fai nella vita, Daniele? Io ho una piccola impresa di informatica a Pisa. Che si chiama? Sto cercando di fare successo. Si chiama SPAD. E in che modo stai cercando di fare successo? Cercando di offrire dei prodotti di qualità e sperando che li apprezzino i clienti, diciamo. Daniele, ti ringrazio molto. Fai buon viaggio e buone vacanze. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Il concetto di vuoto però arriva da un'altra parte. Arriva dalla fisica. Ecco perché oggi, nel Venerdì Santo, voglio chiudere con un pezzo che parla proprio di quello. Il concetto di vuoto è cambiato profondamente nel corso del tempo. Per Aristotele, ad esempio, il vuoto non esisteva affatto. La natura diceva aborre il vuoto. Ancora oggi, nella pratica di tutti i giorni, definiamo il vuoto come il nulla. Se ad esempio un bicchiere contiene solo aria, diciamo che è vuoto, pur sapendo che l'affermazione non è corretta, perché l'aria è materia anch'essa, seppure molto poco densa. Il fatto che l'aria abbia una massa e sia quindi soggetta all'attrazione gravitazionale terrestre fu riconosciuto solo verso la metà del XVII secolo, quando il fisico italiano Evangelista Torricelli eseguì il famoso esperimento del tubo di vetro pieno di mercurio, con l'estremità aperta posta all'interno di una vaschetta, anch'essa piena di mercurio. Fino a quel tempo era rimasta in auge la teoria aristotelica dell'horror vacui. Questa, come abbiamo detto, sosteneva che il vuoto non poteva esistere e che ovunque si fosse tentato di crearlo, immediatamente quel luogo sarebbe stato invaso dalla materia. Dal vuoto sarebbe invece addirittura nato l'universo intero. Non è infatti da escludere che anche il cosmo si sia materializzato dal nulla in seguito ad una gigantesca fluttuazione quantistica del vuoto. Le leggi della fisica non escludono affatto una simile eventualità. Grazie a tutti, grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni e soprattutto a Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?